noi, come sapete, ci occupiamo solo della parte business, non vogliamo parlare oggi di consumo, non vogliamo parlare di applicazioni consumo, ci mancherebbe. Noi ci occupiamo solo degli aspetti dell'IT collegata al valore che genera per il business. Abbiamo condotto nel mese di giugno questo panel a cui hanno partecipato 100 aziende di grande dimensione italiane. Abbiamo intervistato i responsabili IT, qualcuno di loro è qui oggi, quindi colgo l'occasione anche per ringraziarlo di questo apporto. Noi con il panel abbiamo una collaborazione abbastanza continuativa, coinvolgiamo circa 1900 persone, aziende, nei nostri programmi di ricerca annuali, quindi non potremmo fare quello che facciamo se non ci fosse un'interazione, uno scambio molto, molto diretto con loro. E qui vedete come è rappresentato il panel in termini di industry, però quello che è importante secondo me è partire un po' dai numeri, quindi partire un po' da quello che sono, per esempio la prima domanda, le tecnologie strategiche per i prossimi 12 mesi per l'azienda. Vedete, la virtualizzazione la fa da padrone. Mi direte, beh, è chiaro, c'è anche un'interpretazione opportunistica della virtualizzazione legata ovviamente al discorso costi, alla riduzione dei costi di budget IT. Quel 66% lì in realtà è quello che le aziende indicano non come intervento di virtualizzazione opportunistico, prendo tre server e li virtualizzo, ma un passo in un percorso che è già stato studiato prima nella strategia IT e che porta poi a una specie di anticamera del primo passo del cloud computing. Poi vedete altre tecnologie. Sono molto contento del piazzamento delle architetture web oriented e del business process management, perché sul business process management, sapete, ci siamo occupati a più riprese e credo che oggi stia emergendo, soprattutto nella grande azienda, come un problema assolutamente importante. Lì dentro, se volete, c'è anche quello che qualcuno continua a chiamare SOA, giustamente. E via giù, la business intelligence, il social networking, unified messaging, che è tutta un'area nuova di collaboration, come sapete. E poi, vedete, qualcuno cita direttamente cloud computing e software as a service. E la green IT. Siamo un po' messi male con la green IT. Quale definizione di cloud computing? Quale dare? Qual è la cosa che ti viene in mente quando ti parlo di cloud computing? Beh, sicuramente l'aspetto della virtualizzazione dei server, ma poi tutte quelle sigle che hanno a che fare con la S finale, quindi l'infrastructure as a service, la platform as a service, il software as a service e via così. Anziché, citate tutte insieme, messe tutte insieme quelle sigle, anziché le infrastrutture come servizio, vedete da voi. C'è una buona, come dire, ricettività da parte dei CIO di queste aziende al messaggio che arriva, e questo è sempre così, nel senso che gli operatori fanno, dal punto di vista dell'espressione della loro offerta, anche se poi la esprimono con sigle, fanno sempre un ottimo lavoro, il messaggio arriva sempre in maniera molto diretta. E infine la domanda clou, se volete, che è adozione attuale e prevista. L'11% dichiara di avere già adottato e sviluppato delle azioni in termini di cloud computing, il 23% ne ha in previsione l'adozione oppure sta, come vedete lì, nella parte di destra, sta attivando una strategia di adozione. Questo nell'intervallo, nel prossimo futuro, nei 12 mesi a venire. Per me questo certamente rappresenta un mercato, come si dice sempre, di early adoption, ma non è poi così early questa adoption. Il secondo punto, lo vedremo poi da alcune considerazioni che verranno dopo, la velocità con cui questa situazione del cloud computing si sviluppa nelle aziende non è poi così bassa. Ancora alcuni ostacoli da rimuovere, ma sicuramente la strada, almeno dal punto di vista delle grandi aziende che abbiamo visto noi, è assolutamente imboccata. Tanto è vero che anche in termini di priorità di investimento noi diamo sempre la possibilità di fare un ranking dell'investimento rispetto agli altri investimenti che ci sono a budget anziché vengono previsti, l'investimento medio, il ranking, la priorità, l'investimento medio di queste aziende fa uscire il cloud computing dalla semplice situazione di enigma, dove sono in pochi a fare poche cose. Lo sta facendo diventare una prospettiva di nicchia, dove normalmente ci sono un numero, non dico piccolo, ma mediamente in crescita, di aziende che ci credono e quindi investono in maniera molto forte, diciamo, nel progetto. Tanto è vero che rispetto al budget IT c'è un 27,8% di aziende che dichiara assolutamente siamo nell'ordine del 10% del budget IT destinato a progetti di cloud computing. Questo non è assolutamente poco, c'è la classica gaussiana, come vedete lì. E infine, esprimendo un'opinione a tutti quanti, è stata data questa possibilità di esprimere un'opinione su quanto il cloud computing è maturo per un ingresso in azienda, un 28% si dichiara assolutamente a favore di questa maturità, il 34% non lo sa ancora, perché, lasciatemelo dire, qui vedo dei amici che fanno i CIO in azienda, quando io parlo con loro ogni tanto ho l'impressione che tirino il freno a mano, non so com'è, ma questa è un'impressione che ho sempre avuto, giustamente, e quindi non si esprimono, mentre c'è un 38% che dice no, non è ancora verosimile che il cloud computing sia maturo, quindi c'è del lavoro da fare per convincere. Quale evoluzione nell'adozione dell'azienda? A parte una percentuale che dice non avrà una particolare diffusione, c'è una percentuale invece che vedete lì abbastanza significativa di chi a vario titolo invece dice che lo sviluppo ci sarà e anche in maniera molto precisa e veloce, anche se magari lo legano a delle opportunità, a delle cose molto, molto mirate in questo momento. Chi è lo sponsor? Lo sponsor, l'ingresso è sempre il CIO, è sempre il direttore dei sistemi informativi, perché è giusto anche che probabilmente sia così, però man mano che l'idea avanza, il progetto avanza, e il processo di decisione anche, e il coinvolgimento della struttura manageriale è assolutamente, assolutamente evidente. Così come gli elementi propulsori, si fa in fretta a dire riduzione dei costi, no? Uno dice l'IT, nell'aspetto riduzione dei costi ha due valenze. La prima è ti riduco il budget dell'IT stessa e quindi risparmio. La seconda è l'IT per sua natura rende più efficienti i processi e quindi consente dei risparmi sui processi aziendali. Questa seconda cosa è un pochino più difficile da misurare normalmente, però si può vedere anche così. Io preferisco parlare di controllo dei costi. Perché? Perché sono abituato a entrare anche nei progetti di consulenza che facciamo in progetti, in strutture IT dove l'aspetto extra budget è abbastanza comune. Voglio dire, se un'azienda riduce mediamente il budget destinato all'IT perché conta su dei risparmi fatti dalla struttura e dalla comodizzazione dell'hardware e del software, dall'altra parte sceglie magari di affrontare un progetto nuovo che ha nella pipeline e destina per questo progetto un budget che non era allocato per definizione all'inizio dell'anno all'information technology. Normalmente si ragiona così. Così come l'altra polemica CAPEX, OPEX, ciascuna azienda lavora con le sue regole. Se il direttore amministrazione e finanza decide che la filosofia è quella legata all'OPEX, ben vengano i software as a service, ma lo decide l'azienda, non è qualcosa di precostituito all'inizio, perché ha delle derivazioni diverse legate alla valutazione che l'azienda fa dei suoi conti, della sua finanza e al valore stesso dell'azienda, in termini proprio del cash flow che può essere liberato. Principali vantaggi, quindi riduzione e variabilizzazione dei costi, maggiore elasticità, e questo è soprattutto vero anche negli aspetti della virtualizzazione, aggiornamento più continuativo, meno botte diciamo, iniziali nell'aggiornamento e una maggiore chiarezza anche in termini di valutazione anche dei ritorni degli investimenti. Quali gli ostacoli? Io credo che siano quelli un po' soliti in situazioni di questo genere, quindi siano da un punto di vista di ostacoli, come dire, operativi, quello che normalmente riguarda l'aspetto delle competenze del personale, competenze che riguardano il CIO stesso, perché stiamo chiamando questi manager a, per esempio, a fare delle negoziazioni, a lavorare su dei contratti che non hanno mai visto o non hanno mai fatto in quella maniera. Allora, questi signori normalmente non sono dei commerciali, non sono persone abituate ad andare all'ortomercato a fare la trattativa. Comprendere cosa c'è nel software, nello SLA, lavorare sugli aspetti contrattuali è una cosa assolutamente fondamentale. Ce lo metto negli ostacoli e nella problematica legata alle risorse manageriali. Così pure l'aspetto, diciamo, della consapevolezza che c'è a livello manageriale. Noi oggi parliamo con delle persone di business che ne sanno moltissimo di information technology, non in termini tecnici, non vogliono sapere i termini tecnici, ma in termini di funzioni d'uso, in termini di ciò che si può fare. Quindi attenzione, quando io vedo io vedo la mia azienda, quando noi vediamo dei servizi che stanno là fuori, nella nuvola, e che ci servono, io non faccio molta distinzione sul fatto che il mio server che sta, lo ricordo sempre, sotto la macchina del caffè, debba contenere l'applicazione che rende erogabile quel servizio. Non me ne importa proprio niente, mi interessa prendere il servizio, le mie collaboratrici lo sanno, i miei colleghi lo sanno, normalmente lo facciamo. Per noi è facile, siamo una microazienda, decidiamo, facciamo. Per una grande azienda è un pochino più complesso, però attenzione, chi sta nel business, la visibilità sui servizi esterni ce l'ha. E non è necessariamente un impallinato di tecnologia, anche se poi va su Flickr, va su Facebook, ma non c'entra niente. L'altra cosa, grande terrorismo su questo aspetto della sicurezza. Allora, io faccio solo un invito ai tanti che si occupano di sicurezza, che per carità è assolutamente lodevole. Con che cosa vi confrontate? Con la situazione ideale o con la situazione reale in azienda? Perché se poi mi raccontate che il 90% dei problemi di sicurezza derivano dalle persone che stanno in azienda, le vostre persone, beh, allora non dovrebbe fare molta differenza rivolgersi ad organizzazioni che magari sono anche certificate dal punto di vista degli IAS, della Basilea 2 e quant'altro, e che offrono un servizio erogabile ai loro clienti, compliant ai dettami della sicurezza e della privacy, eccetera. Il problema è che questi dettami non sono uniformi in tutti i paesi, probabilmente. Noi stiamo facendo questo grande percorso, non siamo un'azienda che fa, meglio non fa il mestiere dell'organizzatore di eventi, non fa questo mestiere. Noi facciamo questi eventi perché è l'occasione per mostrare ciò che stiamo facendo all'interno con i nostri programmi di ricerca e ciò che poi tentiamo di comunque condividere con i nostri clienti e chi ci segue con tanto affetto, devo dire. Personalmente sono del parere che la ricerca, l'ho sempre detto anche quando è partita nel sbaglio, dovrebbe essere fatta in una logica open source, cioè condivisa con tanti enti che fanno ricerca. Questo non è possibile per tanti motivi e va bene così. Noi continuiamo con i nostri programmi, noi stiamo perseguendo questo programma che è quello dell'Enterprise 2.0 e il cloud computing non è solo preparatorio all'Enterprise 2.0, ma è qualcosa che coinvolge tutto l'aspetto finale. Oggi vedremo anche un po' questi aspetti del mettere i contenuti, le persone all'interno di un network e farli diventare un cocktail assolutamente di valore. L'agenda dei miei pazienti, stamattina vedremo con le aziende quella che è la roadmap, la proposta, ma soprattutto l'esperienza in ambito cloud computing qua in Italia. Abbiamo chiesto questo, non di parlarci di cose astratte. Nel pomeriggio, come è consuetudine, vedremo invece quelli che sono gli aspetti legati alle realizzazioni, ai business case, a coloro che hanno non solo provato ma anche realizzato cose interessanti di cloud computing, e che poi è lo spirito di questi eventi. Cioè, voi venite qua non tanto per sentire me, ma per avere dei confronti con chi come voi ha già affrontato l'argomento, e quindi portarvi a casa quella che è l'esperienza di un'azienda come la vostra, di una persona che assomiglia a voi e che magari ha già affrontato, anche in termini diversi, lo stesso argomento. Questo è lo spirito dei forum Value It. La ricerca, uno di questi librettini che vi conoscete, sono in questo formato che ormai va per la maggiore. Questo libretto qui ha una caratteristica fondamentale, perché al di là delle cose che diciamo noi, nella seconda parte invece del libro abbiamo posto 8 domande che voi poi potete spulciare, eccetera, 8 domande uguali ai nostri partner. E devo dire che leggendo le risposte c'è una grande precisione, una grande puntualizzazione. Certamente fa riferimento a quello che loro, per ciascuno di loro, diciamo, sono le peculiarità dell'offering, delle modalità e del modello, ma sicuramente è anche tutto un aspetto propositivo che vi invito magari a guardare con un po' di calma, perché vi può dare anche degli spunti.